voce e consenso. E come l'ho pagato io? Ho pagato lo stesso così, mi usate in credito di pagare, io l'ho pagato così. Ma è un signor apparecchio, era fatto a Lumaccone di qua. Guarda che l'apparecchio lo conosco, già lo sai, io l'ho dato a Antonio Bombolo, il mio, e era una cosa, un treno, era una cosa allucinante, usciva veramente forte, quindi figurati tu, se avremmo fatto la modifica, sarebbe uscita ancora meglio. Ma tu la modifica la sai fare? No, non ne faccio più di niente, capito, di roba di baracchino non ne faccio più, non ci sono più componenti, che capo di modifica faccio? Inutile che faccio le modifiche quando devi stare a casa, andare su internet, devi diventare scemo e vogliono che pigli almeno 30-40 pezzi di, hai capito, di finale. Io sai quanta roba c'ho buttata qua? C'ho due inverter buttati, nuovi, perché hai capito? Il discorso è quello lì, finale ormai, se non ce ne sono più, quindi cosa mi metto a riparare? Cosa posso chiedere a una persona a un certo punto che mi chiede, dice, Antonio, riparo il baracchino? Sì, te lo riparo. Quanto è che mi viene? Guarda, mi sono arrivati 50 finali perché a un certo punto meno di 50 non me ne danno. Quindi a un certo punto fa la cosa, ti do il finale, mi paghi il finale e anche la riparazione. È a posto. Perché chi li ripara non le chiede uno, capito? 50 sono eccessivi. Deve essere proprio un tecnico che fa quel lavoro lì e basta. Se no sono eccessivi avere tutti questi pezzi. Ma però vendete quanto te ne servono, per dire, costano 2 euro, te ne prendi 2, se ti servono e via, è uno di riserva. Ma a casa pigliare di 50 è un casino. Avanti tu. Sì, infatti è un casino, sì. Negli anni 50 è purtroppo un giorno te lo mandano. Te lo mandano così, te lo mandano. Antonio, purtroppo sì. Quando mi hanno risposto così, dice, deve prendere 50 pezzi, e cosa me ne faccio? Me ne sacco in culo, gli ho detto. No, gli ho detto, guarda, a queste due persone, ho detto, guarda, fai prima dai cinesi, ti prendi il pezzo, gli ho detto, nuovo, e ho detto, e fai prima, perché tanto la riparata non ne vale manco la pena. Io non posso prendere 50 pezzi per un baracchino, per due finali, tre finali, quelli che so. È già capitato, già lo sai. Con quello di Giovania, addirittura, non solo l'altro, capito? Meno male ne ha trovato due di quei transistor, e tu immaginati da quando io ho fatto la scuola, lì all'Inapri, li ho trovati in due schede. Il TDA 2003 che monta, già lo sai anche tu, monta quello lì, e quel tipo di 2009, quello che è l'altro tipo. Quindi a un certo punto cosa faccio? Non me ne faccio proprio niente di TDA 2003. A meno che non c'è un impianto stereo di quelli modello vecchio e qualche stereo di quelli buttati che allora si installavano, si usavano 4-5 finali in parallelo a un certo punto. E ci avevi l'uscito? No, quello è... come si chiama? Quello che chiama tutti quei pulsanti neri, i display, eccetera, eccetera, già lo sai, io gli ho riparato mi per culo a Gio Maria, perché sono riuscito a trovare un TDA 2003, gli ho saldato il finale, gli ho saldato e grazie a Dio, deve ringraziare per culo, perché cazzo, non ne avevo neanche uno di TDA 2003, montano quel tipo di finali, c'hanno 5 piedini e tu immaginati tu, l'ho strappato il doppio, quindi dovevi in pratica saldare 4 piedini nella piazza di sotto e gli altri 4 piedini nella piazza di sopra. Quindi tanto l'insegnante che ci avevi, te lo ricordi come si chiamava? Lusito. Sì, ho avuto Lusito, ma ho avuto anche un altro insegnante che adesso non mi ricordo il nome e cognome, che poi è diventato CP anche lui, il figlio, capito? Perché io quando andavo a scuola mi portavo il baracchino, allora non c'era il superstato 2009, c'avevo il multimo dei tre, mi portavo quello e lo lasciavo lì, capito? Poi l'altro baracchino me lo lasciavo a casa e usavo l'antenna, quella magnetica per la macchina, e parlavo da lì la mattina, hai capito? Chi mi ha dedicato i passi di cura? Stavo in baracchino. Per baracchino era, cosa cazzo, entrava anche lui, entrava, e io da te tu. E io ho fatto il corso come saldatore elettro, ossia acetilenico. Io ho fatto il corso al ginecologo. Tu hai fatto il maniaco, già lo sai, lì come si chiama? Uzzinoso, da quando sei entrato lì alla Vigipol, cazzo, ti stai tentando quella ragazza, cazzo buona, cazzo quella CB. Che cazzo Vigipol? Io non penso un cazzo con la Vigipol, né Vigipol, né Vedetta, né Irvi. Siamo vigilanze private. Poi è già vero che ci ha fatto il trapianto andare dal ginecologo. Sì, sì, Buonasera a tutti, comunque, dai, vi ascolto. Ciao, Pompù. E parla bravo con le signorine. Ciao, bello, ben sentito. Guarda che alla bici poi ci lavora Roberta, te lo sai, sì. Ma le conosco tutte. Le conosco tutte lì alla bici, po'. Cazzo, come la vedono salire nelle scale, lo so che la gente che la guarda, cazzo. Buona, cazzo, dice, cazzo, che buona, che cazzo, Roberta. Me l'ha detto Pietro Calenti, me l'ha detto, figurati, dice. Ogni volta dice che sta nella vigile, poi dice, la vedi questa, dice, questa l'abbiamo sentita da poco. Ma Antone dice una cosa, buona, veramente buona. Io ho detto, io ho detto, se ce la fai, provaci, ma mi sa che ti viene un pochettino male. Quella era il debole di Antonello, Roberta. Ma se la vedi adesso, cazzo, davano alla Vigipol, lo sai, sì, io, cioè, la vede Pietro Calenti ogni giorno che lui lavora lì, cazzo, sono tutti quanti, cazzo, con la lingua fuori, c'è quando lo vedo, perché sale minigonna. Meglio di Samantha. Meglio di Samantha. Comunque la, come si dice, l'appartamento è, adesso non mi ricordo se ci abita Roberto o se ci abita la sorella, perché l'ho visto da poco, sono andato a fare un lavoro, per carità, mi sono spaventato, c'era presente tu la GBC, uguale, tutto pieno di mondezza dentro era. Ma dove? Via Cardinal Fossati, dove li ho portati i quarti. No, sto parlando di via cosa, via Ugola Malfa, di fronte c'è quella palazzina rossa. Sono entrato lì a fare un lavoro, ma cazzo, me ne sono fuggito, me ne sono gira, mi ha detto, guarda, ti piazzo i cavi veloci, e me ne sta andando, i cavi d'antenna TV, perché non voleva più la TV in camera sua. Cazzo, c'era poca roba, cazzo. Cassette di bottiglie di plastica, tutto buttato, c'era poca immondezza. Gente che è disordinata, che sono quelli di ricca. Casa mia non li vedo di giorno. Io pulisco il giorno, è sempre perfetta. Avanti a chi tocca. Luca, hai finito con questo computer? Ho detto che era controllante da hard disk. Sì, bisogna essere sotto con l'hard disk. La mano gli si riga, un capo si rigira e impazzisce. Andiamo bene. Avanti, itiri. Allora mi ricordo, c'è il volo, così, Antonio. No, io mi... domani in 5 minuti finisco a sigaretta e poi salgo giù a preparare la cena. Va bene, già. Ma da te che cucini, guarda a me, sto leggendo e fa vedere. E chi è questo passo passo? No, che non lo sento. Tore, Tore si chiama. Dani, io da arriva. Ma appena siamo con lo smitter qua. Dani. Ehi, Gianni, che? Cosa hai fatto? Perché stai facendo così bene adesso? Così bene? Niente, già. Sempre uguale. Non ho fatto niente. E la radio è allora? C'è 9.5 qua, la radio è una bomboletta. Guarda, ho toccato niente, da come la prima, adesso, sempre, tutti i giorni. E ma magari prima uscivi con altre radio meno potenti, capito? E quello è. Come ti sta arrivando io di segnale, Daniele? Segnale 5, radio super 5, sei già. Mio, il cataggio che ho fatto, la fanno solo qui, ho portato l'antenna, mica, come stavo dicendo Luca, che l'ha fitta la posizione, l'ho attaccata al muro adesso. E niente. Sicuramente va bene, è una posizione più favorevole adesso che ho fatto prima. Sicuramente sì, perché la radio è molto più forte, per me è proprio basso basso di radio. Cava, meglio così. E niente, no, non lì, come avevi fatto la radio, sto usando e basta, tutto qua, sto usando questa grossa cosa. E vabbè, la radio ti dà sui 40-50 watt, dai. Ehi, 30, sto usando e butto. 30, adesso ho proprio una cosa, dopo mi dai un altro, memorizzati questo di segnale. Cappa. Sì, Daniele sta arrivando veramente bene, forse è meglio delle altre volte, non so se lo smitter è diverso, comunque Antonio, sto smitter non ha niente, e quando metti lo squelch ti abbassa un po' il segnale, ti toglie il segnale, perciò sembrava basso, in realtà poi Luca è 9.30, giusto. Tu sei 9.15, roba del genere, quindi è abbastanza fedele. Tu, se vuoi dare un segnale, basta che abbassi l'RF gain, se aggiungi 6 Santiago puoi dare il controllo giusto di segnale, grosso modo, dai. Perché qua dal 9 al 9 più 30 ci sono 2 mm di spazio, quindi che controlli puoi dare in 2 mm di spazio? Giumai non lo vedo nemmeno lo smitter se non metto gli occhiali, capito Antone? Quindi va bene. Tu sei 25 qui più due tacchette, quindi figurati. Io lo sai, dall'87 come hai fatto, quindi sei così di segnale, quindi va bene. Sono contento che sei contento anche tu, quindi almeno l'unica cosa sarebbe stato uguale qualcosa, fagli la modifica per vabbè, fai un bel dialetto dentro, già ci sta già, a voglia, è bello grande quell'apparecchio lì. Dani, ehi, già, prova a mai da gomo con questo apparecchio, con questo scenno. No, per il segnale, però la radio non è pulita come prima. La radio non è pulita come prima, sembra troppo alta, eh. Guarda, la sto regolando, guarda, va bene così. Adesso sì. Cappa, allora con gli stessi watt usciamo lo stesso segnale, va? Era per vedere con 30 watt come uscivo. Cappa, arrivi, quanto è Luca? Lo uguale, di questi cincatto, avete lo stesso segnale. Cava. Vabbè. Via. Ogni tanto bisogna farli girare questi apparecchi. C'è lui che è fermo, non lo sto più usando. Se trovo da vendere me lo vendo. Che mi ha risposto sotto non passava, Io. Comunque Falcone è registrato. E vabbè Antonio, felice arrivavo anch'io, ma chi lo sta mandando? Non lo so, la verità non lo so chi è. Chi era Falcone? Io non sono riuscito a percepirlo, non capivo cosa diceva. Non si comprendeva nulla, comunque era Edo, già era lui sì. Uno dopo c'è qualcuno in zona che a me arrivi a 9.30 e più. Vabbè ragazzi, riprendo io, dai, che chiudo. Ci ascoltiamo le prossime se coincide. Sì, ciao Dani. Ciao Daniele, buon correttivo, buon proseguimento. Grazie, salutoni circolari a tutti, alle prossime. Ciao Daniele, ci sentiamo. Alle prossime. Ciao Daniele, stammi bene. Buon correttivo. Abbaccia la voce tu, che ti vengo da andare a televisione. Tu non registrare, certo, ah beh dai chi suga, il vicino di casa cosa faccio? Cazzo, me la vado nei bolori, se faccio io venire la bionda, giù mi canta in casa. Se no ci andiamo tu, se no ti bisogna davvero di bigliani. Una ci viene la bionda, giù mi canta in casa. Carico lo pantaloncino con la puntamanna. Ma lascia attaccolato. Attacca, attacca. Attacca bastiamo. Vabbè dai, vi ascolto da Gastone che vado a farmi due bracciole, dai, un po' di salata. Magna magna, che ci magna nei gucciucci. E io, 48 kg peso mia, Antonio. 48 kg? Per gamba? 48 kg, non va bene. Sì, una massa, un'altra massa, senza passare a chi? Buon appetito. E un po' di patatine, un po' di ketchup e andare, per stanotte bisogna essere belli in forma, eh. E con chi soffreddo che tira, gli sarietta, fa caridare. Aiuto, andate tutti quanti a dormire. C'è un po' che si sente in dia. Ah, già era calduccio io. Beato a te, Otto, beato a te, io devo lavorare, a me non, non me ne regala nessuno soldi. Ma quanto so che arrivi due io? Un domani? Non so. Ui, che cazzo va a fare di pensione? Mi lascio comunque una pensione, figurati. Manuele guadagna lo stesso che è commerciante. È stato commerciante, magari vi sia stato così, anche se no dovrà sudare un bel a punizzini. Vero Manuel, compro vendo scambio. Curiosando stavo, Sì, ho visto che c'erano due lettori, cos'era? Lettori di DVD? Ah, guarda, di un impianto, c'ho un amplificatore, cazzo grosso che ti collega i due subwoofer da quelli per, che usano per i concerti. Pensato quanto è grosso. No, quelli che hai visto tu sono sempre della Unchio, un lettore CD e una doppia piazza dell'impianto. Tu hai il subwoofer, io ho il subwoofer più il superwoofer, che si deve rimare a casa. Già lo so, ma quando lo accendo io lo stesso così, cazzo si può vedere tutto di mano, da terra, perché c'ho quelli da terra io le cazzo. No, io gli avevo fatto fare due pedaline per mettere il quadrato, no, per mettere la cassa sopra, con le ruote a scomparsa, di modo che quando devi pulire sposti la cassa senza alzarla, la sposti, pulisci e la rimetti a posto. Ah, io gli ho messo, no, sono pesanti, sì, le devo fare anche io due piedistallo con le ruote. Adesso gli ho messo due pezzi di polistirolo sotto a misura con quanto la cassa per modo che non tocca con lo straccio e con la sfida a polvere, capito? Io mettete lo rubo su drattaglia, se cado la cedra rompere i ricatti di nobi, non sopportano nulla, se devo andare a casa serena. No, no, io già la tenda non mi dite nulla, anche se non rubo da un bracchio e ti ricordo io su da ricari. Ma non so cosa ha fatto, ma lo parlo il fuddicino da Riccari, ha suonato un campanile, davanti alla porta non c'era nessuno, lui era sceso nella rampa laggiù. Capito? Comunque tu lo puoi accendere sino a una certa ora, ma non ti possono dire nulla, non ti possono dire. Ma lo sai, l'importante è che non lo accendi dall'otto in sopra la notte. Ecco cosa è. No, io gli ho fatto vedere l'orologio, erano le 6 di sera. Infatti lo so che ci sono gli orari, però non puoi recare disturbo lo stesso, anche se sei in orario, non è che mi fa vibrare tutta la cosa, quello sì. Non la posso mettere a tutto il volume, a parte che era a midday, se non muovo a tutto il volume mi vibra davvero la vetrina. Se ne fuggini, se ne fuggini. Certo, no, a metà volume, neanche a metà volume lo potresti tenere a ascoltare, basta. E dopo proprio loro dovrebbero essere l'ultima persona a parlare, perché sono stati 6 mesi, hanno demolito tutta la casa, trappano, martelli, anche fuori orario, non riuscivo manco a riposare dopo pranzo e non ho mai detto nulla perché io vivo e lascio vivere. Chi l'aveva già avuto la viaggiava di vicino urbani. Facciamo in contravenzione all'operaio, facciamo in contravenzione alla ditta, veramente, facciamo in contravenzione. No, di no, alla ditta lo facciamo in contravenzione. Ecco cosa è. Sì, ma tu non ti puoi mettere dalle 2 a fare i lavori, capito? Uno deve anche riposare dopo pranzo, no? A parte che ero appena stato operato, quindi non stavo bene, però ho sopportato perché so che se ci sono dei lavori da fare, ma io l'ho cavato tutto, tubazione, finestre, tutto, tutto quanto la cappa fa. E poi deve ragionito, che almeno io l'ho fatto sentire musica, quello che mi faceva sentire lui non era musica. E infatti, allora se devi cagliare a mondo, non devi dire nulla, non devi dire, ma che il casino è fatto tu, gli altri hanno sopportato. Quindi avanti, supporta un po' cari Dudu, tu pure, se vuoi andare d'accordo. E se no, via San Paolo, sai, tutti quanti in silenzio, andai in chimica. Aspetta, non è così, no, e se vuoi andare d'accordo, un po' di musica te la devi mettere. E lui, che con gli orari non deve dire nulla. Ecco cosa è. Ma se io a volte mi faccio la strada a piedi, passo sotto le vie e cose, sento musica a tutto volume, e se lui dice lui da finestra aperta, facendo la pulizia con le musica, e ti fa compagnia, capito? Sono le gente che non sa vivere. Quelli che non sanno vivere, no. Allora pulita la musica a tutto volume così no, non va bene. Tanto la devi ascoltare a un certo orario, cosa? Perché non diciamo la polizia, ma ti sei andato a alto volume, ecco cosa è. Allora ti devi con una bomba dentro. Qua butto là, io vado che è orario. Sono le 8:15 se ti può interessare. Saluto tutti cordialmente, grazie per il questo. La sera siamo qua, venite, trovateci, parliamo e facciamo. Niente, non voglio dire una cosa, ma se la stavo dicendo qui mi sono stato, boccaccia mia, stati zitto. Che è meglio, no? Andiamo, andiamo, dai, dai, vabbè già, bisogna sopportare. Vabbè, sopportare, sì, ma io vivo, lascio vivere. Per cui, fratello, anche che gli altri rispettino a me. E io so che dice Dio, pure, mi tocca a vedere a me, mi tocca a vedere con chi tu minoreggio, 4 volte. Ti attacco il microfono da tavolo. So che scendono a testa. Lo so, ma perché ti devi limitare tu per gli altri? Non ho capito. Se la colpa non è tua, perché ti devi limitare? Oh, vabbè, purtroppo è così. La signora hanno dato la fede, ma quella gli hanno rabbio, ma se la manda anche Dubai. E lì è la legge più forte, sono prepotente e tutto quanto, per carità. Vabbè, là, ci sentiamo ragazzi, statemi bene, ciao Emanuele, ciao Luca, Tore e via dicendo, anche tutti gli ascoltatori. Eh già, io ti sono comune ne appresso, anche mi devo obbligare il bacino. Ti saluto anch'io, ci risentiamo alle prossime. Ok, ciao Luca, ciao Manuele e ciao Alessio. Ci risentiamo alle prossime, anche agli ascoltoni, quelli con le orecchie fini fini. Ok, ciao già, ci risentiamo. Ciao a tutti, ciao Tore, ciao Gianni, dai, chiudo anche io che mi devo preparare, dai, ciao a tutti. Ciao bello be, saluto da parte mia, ciao Tore, ciao Gianni, avanti Marco, che sei rimasto in bianco. Marco Condo è sparito. Ehi Antonio, sono in cucina, sento o non sento, dai, ciao che sta andando via, impari Gianni, che deve portare il cane, Tore. Emanuele non so se c'è ancora eccetera, ritenetevi tutti salutati. Antonio, io stacco, là, che sto facendo altre cose, sentiamo in migliori condizioni. D'accordo, alle prossime, stai bene, ciao. E tienilo bene mi quella l'anno 87 che me lo devi regalare. No, basta uno, cazzo, l'87 cazzo lo sai che l'ho venduto. Se l'avessi fatto uguale a questo qui, sarebbe stata una bomba, sarebbe stato. Se questi pompano più di 15 watt, quasi 30-35 watt pompano questi apparecchi qua. Sto scherzando naturalmente, Antone, ci mancherebbe. Sì, tienilo bene comunque a parte gli scherzi. Non fare giochi strani, tienilo come che va bene così, dai. Ciao Antone, buonanotte, buon tutto. Lo sai che non lo tocco, non ho toccato quello lì e vuoi che tocco questo. Questo lo lascio così com'è, come me l'ha dato Daniele, così lo lascio. Me lo tengo da parte e basta. Mi va bene così. Ok, chatto.